Benvenuti a Canna e Camicia. Oggi si comincia. E era un po' che non trasmettevo e quindi nulla. Si comincia con la sigletta. Oggi riparo un mini pimer che si è rotto. E tra l'altro mi si è rotto il mini pimer e il frullatore contemporaneamente, per cui un bel casino. Vabbè, comunque intanto vado con la sigletta. Eccomi. E allora oggi abbiamo addirittura il tappetino. Cioè, abbiamo il nostro tappetino musicale in sottofondo, incredibile. È un po' che questo può succedere solo grazie al fatto che ho riparato il mixer, che era un po' che era morto. E tra l'altro, se volete, vi racconto un attimo: il mixer era semplicemente saltato un condensatore elettrolitico accanto ai transistor di potenza, e quindi erano quelli del preamplificatore, e un pochino scaldavano, e quindi hanno, ovviamente gli elettrolitici sono un po' sensibili al calore, e quindi niente. E allora intanto vi lascio anche un pochino con il tappetino. Antelope massive and crude. Antelope. Bonjour, j'aimerais que nous fassions plus ample connaissance. J'espère que nos rencontres seront pour vous un moment agréable qui vous permettra pour un temps d'oublier les soucis de la route. Vous pourrez m'entendre prochainement à l'occasion des bals organisés, car je dois participer à de nombreuses soirées dansantes dans toute la France. Maintenant, je dédie ces airs à tous mes amis dont la fidèle sympathie m'est si précieuse. Loro sono gli Interloop e questa è Start From Scratch. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right. Intanto parliamo un po' della storia del mini pimer e quindi dei frullatori a immersione. Mini Pimer è un acronimo, cioè Pimer è un acronimo della marca, e quindi essenzialmente è un marchionimo, per cui quando si usa la parola Mini Pimer in realtà ci riferiamo esattamente a una marca, come facciamo sempre con un sacco di robe, tipo quando diciamo la Jeep, Jeep è una marca, e quindi niente, prende un marchionimo, mi piace. E la marca era spagnola, e anche se l'inventore negli anni 50 è svizzero, e lui lo definì per primo il Bamix, che è un'unione di battitura e mixer, perché effettivamente essenzialmente il suo ruolo è tra il mortaio e il mixer. Difficile, difficile, difficile entrare su questo tappetino. Allora. Intanto parliamo un po' di questo Mini Pimer. Questo Mini Pimer è molto vecchio, e quindi non è di quelli che si puliscono smontandoli, che sono molto più moderni e fighi. Questo qui appunto è molto vecchio, purtroppo non si può, e quindi sì, è una schifezza. Quando voi vi pensate che è tutto incrostato e sudicioso, esatto, è incrostato e sudicioso, e arriva anche dentro, sappiate che dentro dove c'è il motore anche lì è merdosissimo. Quindi tutto molto bello, perché sono già sudicio. E per il resto, come funziona un Mini Pimer? Beh, è abbastanza facile. Quelli domestici sono abbastanza piccoli di solito, c'hanno una ventina di centimetri, anche meno, di immersione. Per il resto, praticamente in alto, cioè dove più o meno si tiene le mani, nella parte un po' più cicciottella, c'è il motore e pulsante elettrico, praticamente un piccolo organo di controllo che è un condensatore e un pulsante, e poi la parte elettrica del motore, e poi basta. Nel senso, all'uscita dell'albero del motore c'è un gancio, un sistema dove si aggancia l'albero del Mini Pimer, cioè l'albero dove in fondo c'è le lame, che è quello che vedete e che usate per tritare la roba. Non c'è nient'altro, cioè essenzialmente il Mini Pimer è molto semplice. In questo Mini Pimer, come problema aveva che si stacca, cioè mi cala la parte dove c'è le lame e l'albero tutto insieme, quindi si stacca dentro dalla parte dove è attaccato al motore, scende solo l'albero e le lame, e ovviamente non gira. Il motore gira, ma le lame non girano. Quindi l'ho aperto, vi dirò che l'ho già aperto, sì, perché mi serviva, però poi ho visto che non era così semplice ripararlo, quindi ho aspettato. Allora, l'ho aperto, essenzialmente dentro c'è un tritello di pezzettini di plastica che deduco fossero quelli che tenevano l'albero fermo. Allora, già una volta io avevo riparato questo mini pimer perché aveva già un problema. Il suo problema principale inizialmente era quello che l'alberino di trasmissione girava, ma le lame no, perché le lame erano semplicemente mandate a pressione dentro l'alberino, ma non c'era una saldatura, non c'era niente che li tenesse per bene. Erano solo, diciamo, appunto, per interferenza si chiama. Quindi erano pressate insieme, schiacciate insieme e quello stop. Col tempo ovviamente ha preso un po' di botte, ha preso un po' di robe e le lame non si staccavano dall'albero del mini pimer, perché era tipo in testa l'albero del mini pimer, è come la testa di un chiodo, quindi non possono uscire le lame, però girare a vuoto quello possono, quindi le lama essenzialmente si fermava e l'albero del mini pimer continuava a girare. Quindi l'ho saldato e questo adesso non si muove più, ma, e adesso è qui il problema, è grosso, perché quando l'ho smontato mi sono reso conto che l'albero intero del mini pimer non può uscire dalla sua sede, cioè essenzialmente da una parte è dove entra nel motore e è tenuto dal motore, dall'altra parte invece è tenuto dalla plastica del mini pimer, cioè c'è una specie di cuscinetto tra virgolette, non è un reale cuscinetto, non c'è, gira solo su diciamo una boccola di plastica. E il problema è che dalla parte dove va nell'albero c'è una specie di forchetta, cioè l'albero è fatto in modo che si schiaccia e entra dentro un meccanismo che è attaccato poi all'albero del motore, l'albero elettrico, cioè l'albero del motore elettrico. Quindi non può uscire, cioè non esce da nessuna parte questo cazzo di alberino. Si vede con la luce in fondo un intaglio nell'albero dove probabilmente ci andava un qualcosa che presumo sia di plastica, fosse stato di plastica perché c'è tutti i pezzi di plastica a giro, quindi immagino che doveva avere una funzione tipo di una seger. Ora, se non sapete cos'è una seger, cerco di spiegarvelo in parole però prima di spiegarvelo in parole quasi io metterei un pezzettino musicale, se ce la faccio, perché è difficile fare tutto contemporaneamente, perché alla fine il mixer funziona ma le mie mani meno. E io come sempre partirei dal jazz, nonostante sotto il tappetino spinge tantissimo, e quindi che metto? Metto Nina Simone. Ma il titolo non ve lo dico. Il titolo non ve lo dico. Anzi, guarda, vi aspetto sul pad. E potete arrivare dai contatti di Radio Wombat. Potete andare sul pad e dal pad vedete. Mi trovate sul pad, così indovinerete il nome della canzone di Nina Simone. E vado. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I Allora, eccomi qua. Allora, il volume del tappetino è nettamente alto. Bene. Allora. Oddio, è altissimo. Allora, vi spiego un attimo cos'è la Seger. Allora, più che altro allora, Wiki la definisce anello di bloccaggio e effettivamente ha un senso. È esattamente quello che stavo cercando di spiegare. Anello di bloccaggio. È fatto essenzialmente come un anello, che però non è propriamente tondo, ma è parte aperto in un... è spaccato, non è un anello chiuso. E poi non è un anello in cui è perfettamente circolare sia l'interno che l'esterno. A seconda se è una seger per lavorare interna o esterna, ha una parte a mezzaluna. Quello è essenzialmente per rafforzare e irrigidire la parte più lontana dallo spacco e ammorbidire la parte più vicina allo spacco, che permette flessibilità. Vicino allo spacco ha da una parte dell'apertura dell'anello e dall'altra due fori, che di solito si entra con delle pinze speciali, che sono delle pinze molto a punta e che tendenzialmente funzionano al contrario, cioè stringendo le pinze si aprono, mentre lasciandole si chiudono. Queste servono per aprire ad esempio le seger esterne, perché si chiamano in maniera contraria se non ricordo male, tipo quelle esterne sono quelle che si mettono con l'albero all'interno, quelle interne sono quelle che si mettono con l'albero all'esterno, e ha un senso, perché effettivamente la seger è esterna all'albero in una, nell'altra è effettivamente interna. E in questo caso, appunto, io penso che qui potrei risolvere assolutamente molto bene se riuscissi a trovare una seger che mi va su questo albero. Non ti dico sia perfetta, non bisogna che proprio sia perfetta, ma insomma, almeno che un pochino faccia forza sull'albero e che non esca. Io quindi o ve lascio col tappetino o metto qualcosa, però devo andare a cercare una seger che non ho qua, devo andare in officina a cercarla, non la troverò sicuramente mai, quindi molto probabilmente questo oggi non lo riparerò, anche se è stato individuato, ma devo prendere con il calibro la misura dell'albero e niente, andare a comprare una seger per questo albero di queste dimensioni. Dopodiché bestemmiare tantissimo, perché l'anello di bloccaggio è in fondo all'albero, cioè molto vicino a dove si mette vicino alle lame, quindi è molto in basso e è ovviamente dentro un cono di plastica che è la parte finale del mini femur, quindi essenzialmente è veramente difficile, ma difficile arrivare laggiù in fondo mettendo la seger. La mia idea è metterla in alto, che invece è molto più accessibile, e poi non farla andare con le pinze per benino, ma mandarla giù a cacciavitate facendola rimanere dentro l'albero finché non incontrerà il taglietto che c'è sull'albero, quell'incisione, per cui si bloccherà sull'incisione e quindi risolta. Allora, intanto vado a vedere se ho una seger di queste dimensioni, se no passo all'altro, che è sempre un frullatore, ma non è da immersione, è un frullatore normale. Oddio, vi potrei lasciare con Armstrong, ma sono solo 3 minuti e 20, non so se ce la faccio. Nel caso spero parta quella successiva. E vabbò. Dai. Se no vi lascio il tappeto. No, dai, va bene. Vi lascerò con Armstrong su. Forse. vi lascio un altro perché non parte. No, no, no, non parte, no, no. E il tappetino andava. Perché Armstrong non va? Non gli piace Armstrong, è mio computer. No, Armstrong è cattivo. Cattivo. Ah, vai, va bene, buono. Magic spell you cast, this is love the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the iron rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the iron rose. Beh, qualcosa è partito, è una merda, ma qualcosa è partito. Bene, bene, bene, almeno non siete rimasti in silenzio mentre non trovo la Sager, ho avuto un'altra idea, un po' malsana come al solito, ma forse potremmo risolvere. E allora, intanto levo e metto di nuovo il mio bellissimo tappetello. Allora, l'idea malsana è stata: non ho una Sager, ho trovato una Sager, ma non, no, è troppo grande, non monta su quest'albero, non è proprio possibile. E ovviamente, cioè, io ne ho tipo pochissime, tutte a giro, un casino, non la troverò mai, insomma. Quindi, cosa è stata l'altra mia idea possibile? Io ho dell'acciaio armonico, che sono un fil di ferro, che però si usa per fare le molle. Cioè, quando devi farti una molla, perché non hai la molla delle tue dimensioni, ti prendi del filo armonico e ci fai le molle. Io l'ho dovuto fare per fare delle tende scorrevoli. E effettivamente non è così difficile, tra l'altro, almeno uno non deve fare delle molle particolarmente strane. Era la mia prima volta che provavo e ganzo, cioè quindi un'esperienza. Cosa hai fatto oggi? Molle, cioè un'esperienza che consiglio invece guardare la TV, no, fate molle, è divertente. E quindi, però, la ganzata dell'acciaio armonico è che appunto è armonico, quindi lo puoi piegare e lui, dopo un tot che l'hai piegato, rimane in quella posizione e tende a rimanere in quella posizione, esattamente come fa una molla. Ed è in questo momento molto comodo, perché io potrei provare a fare un anello di questo acciaio armonico che si allarga, perché comunque fa l'effetto molla, ma allo stesso tempo tende a stringere, quindi quando lo arriverà all'intaglio sull'albero, clac, dovrebbe entrare nell'intaglio e sperare che tutto vada a buon fine. C'è un piccolo problema, che è duro come la morte, veramente duro come la morte, quindi non so se riesco a piegarlo tanto facilmente. Ci sto provando, se mi sentite strano è perché sto provando a pigiare, a tagliare, a far troiare. Ora taglio il filo delle cuffie e va bene, va bene. Io, intanto che provo, vado con l'altra canzone che avevo previsto e non i Sonic del merda, che era Glenn Miller, In the Mood. Thank you.

Eccomi, sono tornato. Allora, sto smattando per provare a infilare il maledettissimo anello di acciaio armonico dentro, ma veramente difficile. È duro da morire l'acciaio armonico e quindi sono riuscito a tagliarlo malamente con le tenaglie, che già è duro. E però infilarlo nella sua sede è veramente difficile, anche perché appunto c'è prima c'è un questo, come si può dire, sistema di aggancio che entra nell'ingranaggio del motore elettrico, e quindi la testa è un po' strana, è un po' piatta, con due baffi. E quindi è veramente veramente difficile allargare abbastanza il pezzo da farlo passare, ma non così tanto da farlo deformare totalmente, perché sennò poi non mi prende più l'albero. E intanto io provo a tagliare questo maledetto, però il problema è che quando lo tagli con le tenaglie parte tipo missile e lo perdi sempre, sempre. Ho tipo 13 persone, una che regge il pezzo e l'altra... Ecco, partivo, missile, vabbè. Allora, intanto io vado un pochino avanti con insomma, le sonorità sentite stanno passando dal jazz, sonorità un pochino più reggeggianti o comunque rockeggianti. E quindi pensavo a Marvin Gaye con Let's Get It On. Don't you know how sweet it is? Eccomi. Allora, no, non si sta risolvendo niente, nel senso che è veramente difficile infilare il blocchettino d'acciaio armonico, perché è un anello che è troppo duro e facendo esageratamente tanta forza, a parte che è impossibile perché sto lavorando con due anciaviti dentro il mini primer, è veramente difficile arrivare al punto, mentre probabilmente con la Sager e le pinze apposta uno riesce a tenerla abbastanza larga per almeno un pezzo, diciamo, fino a scavallare la prima parte, e poi dopo potrebbe entrare, ma così è veramente difficile, che con due cacciaviti devo spingere giù un filo di 0,8 mm, quindi è praticamente impossibile beccarlo e spingerlo senza che sguisci via, ecco, partita tipo missile. E no, eccolo, l'ho ritrovato, quel culo. Allora, intanto, niente, io riprovo un secondo, l'ultima volta, e poi porto il frullatore. Speriamo, il frullatore, vi dico la verità, se lo scuoti è tipo una maracas. Io non so cosa sia successo, è stato usato e messo via, quindi o c'è un topo morto dentro, se no non mi spiego cos'è che ci sia dentro che suona e si è spappolato da solo, così, a stare dentro un ripostiglio. E intanto Gary B.B. Coleman con The Sky Is Crying. She was walking on down. Piangendo anche Gesù Bambino insieme a tutte le bestemmie sto tirando, che comunque non risolvono la situazione. Intanto vi faccio sentire con sotto The Sky. Crying anche il mio frullatore. Senti come scrying dentro. È tutto rottino. L'arrottino. Allora, vi lascio di nuovo a Coleman. Thank you. Rieccomi. Allora, intanto che il nostro Signore scende sulla terra per aiutarmi a bestemmiare con lui e suo padre, sua madre e suo fratello, intanto io cerco di smontare questo schifosissimo oggetto che invece ha le viti più lunghe del mondo, ma a parte le viti più lunghe del mondo che sono a croce, ma che ovviamente noi la croce non ci piace, per cui lo usiamo con un cacciavite a taglio, ma a parte le riflessioni su questo, ci sono quattro viti, quattro, dici cazzo, su quattro viti, ecco, una, hanno fatto tre a croce e una a triangolo. Cioè, un triangolo, è una specie di triangolo, non è propriamente un triangolo, perché una chiave a triangolo me l'ero costruita perché c'erano già dentro un tostapane che aveva tutte le viti a triangolo. Si fa, cioè con la mola ti fai una specie di oggetto a triangolo, diciamo che è fattibile, però questa qua è strana, è ancora più strana, non è propriamente un triangolo. Sì, è più che poi laggiù in fondo non si vede nemmeno. È tipo una. Non è un triangolo. È una specie di croce, però a tre punte che si incrociano tutte nel centro. Una specie di. Sì. Boh, non saprei come si chiama. Che è praticamente imprendibile con qualsiasi cacciavite. Sì, non ci si fa. E tra l'altro, mentre parlavo di questo, vi dicevo che nel mini primer, mi ero dimenticato che anche nel mini primer, quando l'ho smontato, c'era una vite sola, ma una security torx, ovviamente. Le security torx sono quelle chiavi a stella, ma a sei punte, che sono le torx, con però un pallino nel mezzo in rilievo, per cui non ti ci fanno infilare qualsiasi altra cosa che non sia una security torx, compreso una torx stessa, che è piatta e quindi non c'entra. Ma ho scoperto invece che, per l'appunto, forzando un po' il pallino, essendo che comunque era abbastanza piccola, si è staccato il pallino, e quindi poi l'ho tolta con un cacciavite a taglio, come qualsiasi cosa va smontata, cioè si smonta tutto con un cacciavite a taglio, non c'è. E quindi niente, io intanto continuo ad andare avanti con la musica, intanto che non mi si... Cioè, provo a levarla quella fatta strana, non saprei come. Devo pensare un secondino a come toglierla. E forse con due cacciaviti ce la faccio contemporaneamente. Perché andrò dentro un buco in fondo. Quindi non so se ci riuscirò. E intanto vi metto a parte il tappetino che tappeteggia. E vediamo qual era la prossima canzone. Sam Mayer. Ma sono le 7, sono già le 7. Io direi a questo punto andrei anche avanti e non lo so. Andiamo, io direi quasi con la perla. Oggi c'è tan tan tan tan la perla. La perla è di Nello Taver e si chiama Scassi il cazzo freestyle. Il miglior rapper d'Europa è tornato, mi dispiace a tutti. Devo fare. Yeah. Entro su Facebook, leggo Nello basato. Ho preso un coltello e l'ho coltellato. Ciao, come ti chiami? Piacere, sono Patri. Patri come? Patri chi? Patri sì, patriarcato. Dicono che sono razzista perché ordino un negroni. Stronza zitta, non parlo con te se usi lo Xiaomi. Prendo un Montenegro al bar della Bocconi. Non mi mangi teneroni, non è roba da terroni. Black humor, terra dei fuochi, black tumor. Siamo tutti ritardati, Adamo ed Eva in cesti tutor. Tovaglia sulla targa, non mi prende il tutor. Cisgender, cisgiordania, cheeseburger, ci si ammala. Antartide è bianca privilegiata. Sai che ti dico, vaffanculo, me ne sto in silenzio. Così sicuro non si offende più nessuno. Mia mamma scassa il cazzo, il vegano scassa il cazzo, macellaio scassa il cazzo, banca bestia scassa il cazzo, e Gesù scassa il cazzo. scassa il cazzo e tu hai scassato il cazzo, il celiaco scassa il cazzo, io mi scasso il cazzo, mia mamma scassa il cazzo, il vegano scassa il cazzo, macellaio scassa il cazzo, banca bestia scassa il cazzo, e Gesù scassa il cazzo e tu hai scassato il cazzo, il celiaco scassa il cazzo, io mi scasso il cazzo. Le mucche fanno mu, la chiesa c'ha Gesù, ma solo una delle due fra non paga li mu, positive HV, fra voti positivi, non si dice curvi, si dice Peppa Pig. Le mie rime son pesanti che ti sembrano femministe, le stronzate che ti scrivo potrei fare il giornalista, le ragazze che mi chiavo c'hanno tutte l'asterisco, voglio una siciliana perché l'intimo è in pizzo, sono un ragazzo a modo, vedo un uomo dare anello ad altro uomo, nella mente penso solo bro, ma allora questo è Fro, questo è Frodo. Ah, hai avuto paura, hai avuto paura. Mia mamma scassa il cazzo, il vegano scassa il cazzo, macellaio scassa il cazzo, banca bestia scassa il cazzo, e Gesù scassa il cazzo, e tu hai scassato il cazzo, il celiaco scassa il cazzo, io mi scasso il cazzo, e mia mamma scassa il cazzo, il vegano scassa il cazzo, macellaio scassa il cazzo, banca bestia scassa il cazzo, e Gesù scassa il cazzo, e tu hai scassato il cazzo, il celiaco scassa il cazzo, io mi scasso il cazzo. Rieccomi, rieccomi, rieccomi dopo la perla di trash. E vabbè, vabbè, comunque c'è delle cose veramente discrete sue. E allora, intanto che sto smontando il troiaio numero 2, e anche questa è proprio grande roba, e tutte le parti in plastica si stanno tipo sbriciolando, sono tipo fuse, ma cioè non ha nemmeno, io non so quanti anni ha, ma è una roba, boh, cioè ci avrà 5 anni, cioè, è proprio folle sta cosa. E va bene, io continuo intanto a lottare con questa bellissima vite stelleofonica, come la chiamerò, tricostellata. E intanto intanto vado con Sam Mayer, I Got the Blues. Thank you. Then you catch a woman getting down wrong, like I caught mine. That's what gave me the blues. Oh, let me tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I've got the blues. Oh, oh, oh, oh. Yeah, allora. L'ho smontato, devo dire, in maniera molto brutale, perché tanto è rotto, quindi niente, ho levato le viti che si toglievano, poi ho visto che si staccava dei laterali anche senza riuscire a togliere la vite, e poi ho tirato il fondo finché non si è spezzato l'ultimo gancio che teneva la vite, che vabbè, niente, era quella vite triangolare intoglibile. Però va bene, ho visto cosa è successo, anche in realtà c'è ancora 3 viti su 4 che lo reggono, quindi non c'è problemi. Ma quello che è successo è che c'ha frontalmente un selettore per selezionare le velocità e le pulsazioni, cioè pulsazione oppure 1, 2, 3, forse 1, 2, non so nemmeno, 1, 2, no, 3, cioè è troppo esagerato. E essenzialmente quel aggeggio, che non è un potenziometro perché non è, fisicamente non c'è una scheda elettronica, è proprio fisicamente un selettore, completamente sbriciolato, quindi non toccavano più i fili, semplicemente i fili sono tutti a giro, non c'è più nemmeno le linguette, ne ho trovata una a terra prima mentre l'ho aperto, è partita, quindi sono tutte a giro. Intanto magari io richiappo le linguette che sono andate a giro per cercare di capire come era cablato, perché a questo punto io non ho più nemmeno un'idea, perché il selettore ha 4 uscite o entrate che siano, no, una dovrebbe essere l'entrata e poi c'ha 3 uscite, il che torna perché è un pulsazione 1 e 2, però chiaramente io non so come era messo, per cui dovrò fare una specie di reverse engineering e dopo o trovare un sostituto, un selettore sostituto, oppure toglierlo e magari mettere o un pulsante che fa sempre pulsazione, o se lo tieni premuto va fisso, e boscare l'uno, oppure 2 pulsanti, uno per andare a 1 e uno per andare a pulsazione ma se lo tieni va fisso, e risolvere così, perché questo qua io non penso che come ricambio lo ritroverò mai nella vita, e poi comunque anche se fosse che lo ritrovo, che faccio, lo rimetto, cioè se è sbriciolato dopo 5 anni e magari lo trovo di un'arca marca, non lo so. Va bene, allora, intanto che è finito chi era? Ah, Sam Mayer. Beh, teoricamente c'era Tom Waits, che è uno dei miei artisti preferiti, però è molto, era Marta, quindi molto molto lenta e tranchi. E mi faceva fatica, cioè io vorrei iniziare a fare roba un pochino più movimentata, sono le 7:11, quindi salterei tutto praticamente. Bah, non saprei, sì, metterei Prozac più classico, acido-acida. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande come una città gigante. Acido suono, sento solo te, resto che cos'è. Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è. Viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai. Allora, ho riservato tutti i pezzi, si erano incastrati ovunque, quindi era quello lo sfarfallio che si sentiva dentro. E vabbè, niente, in realtà non è così grave, nel senso che appunto o cambiando pulsanti o riprendo ritrovato tutto si riesce, secondo me, quasi a rincollarlo volendo, cioè volendo fare proprio una porcata. Si rincolla, magari con dei sigillanti strutturali, con roba che è un po' elastica e quindi non accusa troppo. Però in realtà mi sembra che si è rotta anche la parte filettata che sta davanti, che è quella dove ci sta la ghiera, che poi tiene il tutto attaccato alla carcassa. Quindi è proprio, cioè, marcia. Questa plastica qui è niente, fa schifo. E quindi non penso che riparerò questo, penso più probabilmente che volerò ogni cosa e semplicemente metterò dei pulsanti 1, 2, vai, stop. E va bene, intanto per la parte musicale possiamo continuare con la nostra trasmissione. E già io avevo scritto del pad, ma non ho, vabbè, tanto. E va bene, intanto io potevo dare un po' di contatti di Radio Wombat, che è importante. Scriveteci, lasciateci le vostre opinioni, le vostre infamate, o se volete ci potete anche lasciare il vostro IBAN con il vostro, anche magari il numero di carta di credito, e se volete anche la password, e così, o il PIN, così insomma poi la donazione ce la facciamo da soli. Anche se effettivamente noi non prendiamo donazioni, però vabbè, è uguale, cioè, nel senso, se volete dare a me, io vi mando la mia mail, fa sempre molto comodo. E intanto i contatti della radio: postawombat@insiberia.net, su Twitter Radio Wombat Fi, e va bene, sul sito della radio, cioè radiowombat.net, potete andare a contatti, lì ci potete lasciare un messaggio nella messaggeria vocale, che è molto, sempre molto piacevole e molto bello sentirli. E altrimenti potete iscriverci direttamente sul pad. Ricordiamo che il pad è una specie di messaggeria in diretta, per cui è una figata, cioè voi scrivete e noi rispondiamo direttamente nel momento. Quindi è un modo improprio di usare un pad, ma figo. Bene, benissimo. Allora, io a questo punto, dopo i Prozac, andrei con i Pearl Jam, che fanno sempre molto piacere. We'll be right back. Allora, sono tornato in linea perché? Perché ho trovato un po' la corrispondenza dei fili. In realtà ci sono solo tre fili, quindi esattamente come pensavo. Uno è l'arrivo dell'elettricità dagli interruttori di sicurezza. Due sono essenzialmente, come dicevo, uno è il pulse, ma il pulse è anche tutta potenza, e l'altro è media potenza. Quindi i pulsanti da fare sarebbero due, uno che dà elettricità a tutta potenza e poi uno lo tiene premuto se vuole continuare o se lo lascia è in pulse, e l'altro è un pulsante anche volendo 0-1, oppure trovare un pulsante in tre posizioni, quindi 1-0-2 e il pulse buona, cioè nel senso nel caso fai 2-0-2-0. Quindi sono le 7:22, il tappetino intanto è cambiato, tappetino notevole anche questo. Ma non mollate, perché vi dirò, anche se il tappetino è estremamente funky, morbido, non c'è in programma qualcosa di funky e morbido. Ci sono i Korn, ma sì, Blind dei Korn. could see I'm going blind. I could see I'm going blind. I could see I'm going blind. I could see I'm going blind. Lascio con i Kraftwerk, The Robots, perché introdurrò probabilmente prossima settimana, forse, o quella dopo ancora, riuscirò forse a parlare delle auto elettriche e ovviamente con una critica in parte al loro funzionamento e alla loro definizione di ecologico. E quindi niente, vi lascio con i Kraftwerk e ci sentiamo prossimamente. Buona serata. Robot.